Eccoci, allora avete capito come vi consigliamo di passare questo tempo di clausura, con quale attività intensa. E a parte questo, vi volevamo proporre un ascolto, una narrazione di come la bicicletta descrive i racconti la bassa pianura padana, che sappiamo all'inizio è stata la più colpita di questi giorni. Quindi vi lasciamo a questo testo, fra poco lo ascolterete. Buon ascolto. Si potrebbe fare un ritratto dell'Emilia parlando delle biciclette. Anche se ce ne sono in tutto il mondo, sembra qui la loro sede naturale, nella bassa padana, dove all'improvviso arrivano da una carraia o da un portone. Ed anche da sola, spiccando sugli argini contro il cielo, assume forza di un simbolo locale, come la luna bassa. Basta che un passaggio a livello si chiuda per pochi minuti e subito vi si affollano decine e decine di questi veicoli. I viaggiatori delle littorine locali e dei grandi treni fanno in tempo, prima di essere portati lontani, a vedere le sbarre che si alzano e lo stuolo dei ciclisti con i cappelloni di paglia sporchi di verde rame e i gilet con la catena dell'orologio rimettersi in moto senza fretta, perché nessuno corre in bicicletta, come se il suo ritmo, a differenza dei nuovi mezzi fragorosi, sia il solo che, favorendo la conversazione con la natura e con il prossimo, ridia alla parola la sua proporzione. Gli emiliani non usano la bicicletta per tragitti faticosi, laboriosi, ma corti, cortissimi, o per nulla, anche se gente umile di ogni strumento perpetua l'utilità, per esempio il contadino che porta al casello il suo quotidiano bidone di latte, il boscaiolo che raggiunge le rive lontane del Po ogni mattina appena suona l'Ave Maria, senza falcetto e scure perché li ha lasciati là il giorno prima, nascosti tra le robinie, la usano dunque come il cappello, che non si può abbandonare, poiché fa parte della persona anche quando è inopportuno. La bicicletta ha da noi qualche cosa del cane, continua compagna che si porta con sé, magari senza montarla, per arrivare dalla casa al caffè che dista 20 metri. Per questo se ne trovano addossate alle colonne dei portici decine, mentre i padroni giocano a carte e discorrono con monotonia di sport. Le lasciano a scottarsi al sole, a prendere la ruggine per la nebbia o per la pioggia, e se cadono, sia pure rumorosamente, nessuno le raccoglie, per ostentarne la fedele robustezza. Uno può lasciare la sua bicicletta anche una notte intera al ghiaccio. I furti sono più che rari, in quanto una bicicletta dal suo proprietario e dai familiari ed amici è riconosciuta da lontano come una faccia. Una volta l'orgoglio di avere una marca rinomata era grande e costoso. Adesso la bicicletta, più è priva di lucentezza ed aggeggi, più la si predilige per condividerne la sua funzione primordiale. Le classi non sono mai segnate da una bicicletta bella o da una bicicletta brutta. Un ricco agricoltore, un negoziante di formaggi, pone nell'automobile la sua vanità e nella bicicletta, invece, con maggiore o minore consapevolezza, dei sentimenti quali il piacere del sentirsi provvisoriamente uguale agli altri. Come i carabinieri, così i ciclisti padani vanno volentieri due a due. Un ciclista, per appaiarsi naturalmente ad un altro, contravviene alle leggi del traffico. Folte comitive di ciclisti si compongono secondo questo bisogno di parlare, di comunicare, la nota socievolezza che trasforma anche i sellini delle biciclette in sedie casalinghe per conversare. Si piantano nel centro dell'abitato con una gamba a terra e la seconda che pende lungo il telaio, specie i giorni di mercato, vicini al punto che i pedali di una si intrecciano coi pedali dell'altra e si formano grovigli di ruote e canne da cui sembrerebbe arduo sciogliersi, ma si sciolgono con grazia, anche se montate da uomini corposi che poi si avviano verso casa tra discreti suoni di campanelli ed accenni di fischi per avvertire un passante. Ma i toni non sono sempre idilliaci. Ho visto un tale sollevare una bicicletta come un fuscello per scagliarla furente contro un diverbiante. Interminabili file di biciclette ci sono per andare alle sagre dei paesi, resi ancor più limitrofi dalla facile pianura, e dietro un funerale con un fiore sul manubrio. Nel ritorno dal cimitero si sparpagliano per viottoli campestri senza forzare l'andatura. Quando saranno lontani dall'abitato, forse pedaleranno forte per sfogare la voglia di vita accresciutasi nel seguire il morto. All'alba i pescatori, con la canna a tracolla, inaugurano la giornata e la maggior parte ci va in bicicletta. Decine di pescatori, distanti gli uni dagli altri, poco o tanto, si annunciano solo con parchi gesti. Il peso del gobbo appena pescato, o allungano la mano verso l'erba dove spunta una bottiglia di Lambrusco, che, pur essendo il vino tipico di almeno tre quarti della regione, nasconde sotto questo unico nome una varietà di colori, di gusti, di schiume, come nessun altro vino. A conferma che sotto tante facce, per lo più quadrate e rosse, ci sono tante sentenze e tanti umori. Se l'alba è dei pescatori, il crepuscolo è degli innamorati. Si sono allontanati dall'abitato incontro alla sera, con un braccio dell'uno sulla spalla dell'altra, poi le luci repentine dei camion che trasportano l'uva e i tronchi dei pioppi più tardi li illuminano, abbracciati, con le biciclette abbandonate sull'orlo dei fossi. Sono anche le ore nelle quali le balere diventano luoghi fatati e i ballerini arrivano a centinaia anche dalla riva lombarda attraverso i ponti di barche che hanno il legno compatto quasi come quello dei velodromi e le biciclette si ammassano questa volta a centinaia coi penduli cartellini del posteggio schizzando fiamme dai raggi delle ruote sotto la luce elettrica. Dentro la balera i giovani ballano stretti senza tanti complimenti, per cui nascono molti figli prima delle nozze e si parla d'amore non meno che a Catania continuamente. Ma tra le parole e il loro appagamento non corre la lunga distanza del mezzogiorno. Il senso del presente è così forte che ciascuno è spinto a godersi subito ciò che si offre. Si incontrano fanciulli che vanno in bicicletta come pazzi, senza mani, per mostrarsi acrobati alle bambine coetanee. E questo è il primissimo amore. I vecchi cercano di usare la bicicletta fino all'estremo e anche quando le loro gambe sono deboli riescono ad issarsi sulla bicicletta e ad andare. Vanno a comperare il pane per le nuore con l'illusione di una velocità propria. Anche le foche bevono Radio Wombat. Eccoci tornati su Radio Wombat in punta di pedale. Vi ricordiamo in AM 1359 per ascoltarci direttamente in AM. Oppure se ci volete ascoltare in streaming wombatnoblogs.org oppure con la nostra app e se ci volete scrivere wombat@wombatinsiberia.net. Bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato questo pezzo che è un racconto di Cesare Zavattini che tramite la bicicletta racconta, ci trasmette appunto quelle atmosfere, quelle suggestioni dell'Emilia, di un'Emilia ovviamente che non esiste più, un'Emilia degli anni 50, forse degli anni 60, Adesso appunto sappiamo che è un'Emilia molto cementificata e piena di centri commerciali fichissimi come vorrebbero, e niente, però la bicicletta la faceva la padrona, e speriamo che un giorno torni a farla la padrona anche in quelle zone così tanto colpite dall'epidemia. E niente, noi ora si guardava un po', non si può non parlare dell'epidemia, ma parliamo degli effetti che ha avuto sul traffico, su quello che ci interessa ovviamente. Abbiamo visto le nostre città svuotarsi, abbiamo visto Firenze, ci sono delle foto di Firenze totalmente vuota, che uno dice ah che bello. Ci sono anche delle foto del cielo di Firenze che mostrano nettamente come l'aria sia molto più pulita. E, anzi, se volete maggiori informazioni sull'aria di Firenze e della Piana, vi ricordiamo il sito che è ariatira.org, .it, dove potete vedere appunto le centraline del progetto che monitorano, diciamo, un progetto dal basso che riesce a monitorare l'inquinamento nella Piana Fiorentina. E si diceva che questo blocco ha cambiato davvero alcune cose, ha cambiato l'inquinamento, è stato confermato anche dall'ESA e anche da altri vari enti che le concentrazioni di inquinanti viste da satellite hanno avuto un crollo vertiginoso. E questo perché? Perché tutti siamo in casa, perché chi può lavora da casa, e quindi non c'è più quell'affollamento e quel traffico quotidiano, e questo dimostra quale sia effettivamente l'impatto sulla qualità dell'aria del traffico automobilistico. Siamo tutti in casa, quindi i riscaldamenti sicuramente sono accesi o comunque parzialmente accesi, quindi non si può più dare la colpa ai riscaldamenti, è proprio il traffico motoristico, automobilistico, che ci soffoca i polmoni e che oscura il cielo. Se gironzolate un po' in rete troverete le foto del cielo di Firenze, che è tutto un altro colore. Comunque, tornando alla notizia, la notizia ufficiale dice appunto che gli effetti praticamente questo è il comunicato dell'ESA, gli effetti dell'epidemia del virus SARS-CoV-2 o COVID-19 si fanno sentire anche sulla qualità dell'aria. Nuovi dati ottenuti dal satellite Copernicus Sentinel 5P dell'Agenzia Spaziale Europea mostrano una diminuzione dell'inquinamento, in modo specifico delle emissioni di diossido di azoto, su tutta l'Italia. Questo calo è particolarmente visibile in Italia settentrionale, con l'area più inquinata d'Europa, e coincide con l'adozione delle misure prese per limitare la diffusione del coronavirus. Quindi è l'animazione poi che viene fatta vedere, la potete trovare su internet, e l'animazione mostra le fluttuazioni delle emissioni di diossido di azoto in tutta Europa dal 1 gennaio 2020 all'11 marzo 2020, ed è evidente il crollo, diciamo, degli inquinamenti su quella parte di Italia. Questo ci fa dire che forse, pensando a un nuovo sistema di trasporti che sfrutti molto di meno il traffico automobilistico privato, ora certo in questo periodo i mezzi pubblici sono da evitare, però in un futuro, ecco, ricentrare il traffico urbano via dal mezzo privato e motorizzato a mobilità alternativa sarebbe davvero una soluzione evidente al problema degli inquinanti in genere, in particolare in questo caso del diossido di azoto. Bene, l'abbiamo fatta lunga, adesso via, mandiamo un altro pezzo e sempre rimaniamo nel tema. Vi passiamo Giancane, il nostro amato Giancane. We'll be right back.

Ma innanzitutto gira un po' le scatole, perché abbiamo, con questa quarantena, perdiamo un po' della preparazione che abbiamo fatto durante questi 3 mesi di preparazione. E niente, ci si allena sui rulli e cerchiamo di perdere il meno possibile. Poi eventualmente, quando ripartiranno le corse, ci hanno detto che ci saranno 20 giorni per riprepararsi di nuovo, per iniziare più in forma, e poi vedremo di fare un'ottima stagione come l'anno scorso. Beh, divertirsi più che altro. Tra l'altro, proprio in questi giorni sta facendo delle giornate che io soffro, spettacolare, cioè sono proprio da bici, temperatura perfetta, neanche una nuvola, vabbè. E a volte, no, la tortura, però si fa anche questo. Tra l'altro oggi ho visto che è uscita la nuova, diciamo, il ministero ha specificato meglio su cosa si può fare in bici, però loro dicono si può uscire, però appunto da soli, non in gruppo, eccetera eccetera, però comunque non ci si sente tanto di uscire, no? Perché no, preferisco fare i rulli con mio fratello. Sì, si fa bene insieme. Sì, poi sì, anche la squadra ora ci ha detto: ragazzi, state a casa. E quindi stiamo a casa, però si stava a casa lo stesso. Sì, io sto aspettando ancora i rulli, quindi sono qui che allora mi dedico a registrare, appunto questa è una puntata registrata, sto registrando un po' di puntate. Senti Lapo, come ti è nata la passione per la bici? Ma io fin da piccino ho sempre seguito un po' il ciclismo, il mio babbo allenava nella vecchissima Cipratese e allora poi io e mio fratello piano piano siamo appassionati da G2, abbiamo iniziato. Siamo junior. Cosa vuol dire G2? Scusa, perché è giovanissimo. Di secondo livello. Avevo 6-7 anni, non ricordo bene l'età. Okay, poi abbiamo fatto tutti gli anni, sono 10 anni che si corre più o meno. Boia. Tanta roba. Complimenti. Sì, c'è passione. Ottimo, ottimo. Senti, ma ti volevo chiedere, per te la bicicletta che cos'è? Cioè, è solo uno sport? O pensi... No, è una passione più che altro, perché comunque è anche una forma di svago. Io quando esco da scuola non vedo l'ora di prendere la bicicletta e andare a fare un bel giro, andare a fare le salite, durare fatica. E è un mezzo straordinario, perché comunque vai con le tue energie e capisci un po' come funziona anche per le strade, ti adatti un po' a queste cose qui. Senti, ma c'hai un mito, uno sportivo che per te è un ciclista che per te è un mito? Cioè che lo imiti o comunque lo ammiri, lo hai ammirato? Mi piace tanto. Diciamo Viviani mi piace. Ma ecco, soprattutto perché fa pista e anche a me piace la pista, campione toscano sono. Azza. E mi piace vedere le sue corse in televisione. Quindi tu sei più un velocista? Proprio velocista no, però in pianura viaggio, dai. Ok, no, è che è giusto per... ora quelle categorie ormai nel ciclismo non valgono più, no? Velocista, passista, scalatore sono... No, ancora no, ancora non c'è il velocista puro, queste cose qui ancora non ci sono. No, ti facevo la domanda della bici perché allora la nostra trasmissione non si occupa proprio tanto di ciclismo sportivo, no? Si chiama In Punta di Pedale perché raccontiamo il mondo dalla punta del pedale, perché per noi la bici è il modo con cui noi guardiamo il mondo, la usiamo per tutto, no? Per andare a fare la spesa, per andare al lavoro, per farci dei viaggi. E quindi infatti la mia domanda è: che so, un giorno ti è mai venuto in mente di fare un viaggio in bici? Ovviamente non con una bici da corsa, che è un po' delicatina, però per dirti, partire e farti, che so, farti tutte le vacanze il giro della Sardegna. Non a gara, eh? No, quando siamo andati in montagna con la mia famiglia, io e mio fratello siamo andati in bici, abbiamo fatto, anche se non c'era da allenarsi, la voglia di andare in bicicletta c'era e abbiamo fatto il Passo Gavia e lo Stelvio e la voglia c'era e allora abbiamo preso la bicicletta e siamo andati. Senti, invece ti volevo chiedere, questa cosa che mi hai detto che mi era sfuggita, che sei campione toscano su pista. E, diciamo, quanto tempo ti ha preso questa cosa? Quanto, è stato ovviamente un sacrificio, immagino, no? Ma come la vivi? Cioè, come, è come un traguardo o un punto di partenza? Ma spero sia un punto di partenza. Perché comunque l'anno scorso sono andato veramente forte in pista, anche i miei compagni di squadra comunque andavano forte. Poi all'italiano ho avuto la sfortuna di cadere nelle qualificazioni, però mi sono qualificato e la corsa è andata normale, dai, soddisfacente. E spero quest'anno di prepararmi bene, dato che sono junior e settimana, e poi dal secondo anno di andare veramente fuori. In bocca al lupo, eh. Qua c'abbiamo la tifoseria. C'hai la tifoseria, sappi che c'è la tifoseria. Quanto è diverso andare in pista con la bici e andare fuori? Cioè, a parte che la bici è diversa, no? È una scatto fisso e tutto quanto. Come ti cambia? Anche le sensazioni che hai, che ti dà la bici, se ce le dovessi descrivere. In bici, la bici da strada secondo me è diversa, perché comunque proprio lo stare in gruppo, metti caso in una corsa, è diverso, perché in pista comunque hai bisogno di una tattica che sulla strada non puoi attuare, per esempio controllare meglio la corsa, tipo stare alto, scattare lanciandoti, queste cose sulla strada non le puoi fare, quindi comunque devi avere anche una buona tattica per la pista e per la strada. Invece in pista e in strada, voglio dire, hai fatto qualcosa? Stai puntando a qualcosa? Quest'anno si punta alla vittoria di squadra, dai. Speriamo bene, se si inizia a correre, quando si inizierà a correre. Hai visto, sono state fermate tante gare. Per dirti, va. Ma le Fiandre l'hanno rimandato e secondo me l'hanno, cioè la sospendo perché non è fattibile. Ecco, delle gare famose, quale ti piacerebbe fare? Non dico vincere, fare. La Tirreno di Gap mi piacerebbe fare, anche la cosa, Milano Sanremo. Quindi proprio l'asfalto puro. Queste cose un po' tipo invece i San Pietrini, vabbè, le sì, dico i, oddio, le classiche del pavè non ti affascinano. Ma insomma, da allievo le corse sulle sterrate comunque andavo bene, però preferisco restare nelle corse in Italia. Quello per ora sì. Senti, poi ti volevo chiedere, Come vivi, sai, noi andando in bici sulla strada un po' ci confrontiamo con un po' di scocciature, no? Beh, ti faccio l'esempio mio classico, io mentre vado al lavoro a volte sì, ci vado con la bici da corsa perché mi garba svegliarmi presto e fare un po' d'allenamento, no? A volte ci vado con la pieghevole perché mi è più pratica, sai, la pieghevole al massimo fa, se col vento a favore in discesa faccio massimo 20 km orari, no? E il classico, c'è sempre l'automobilista che mi urla vai a lavorare, perché per loro chi usa la bici è uno che sta giocando, cioè è vista sempre come un gioco. Tu in strada, che comunque cioè ci fai fatica, non ci fai un lavoro, ti auguro di sì, però come la vivi sta cosa? Cioè, ti fa un po' paura la strada ultimamente? Ormai ci si è fatto abitudine, è tanti anni che ci si arena sulla strada, di cose ne abbiamo visti tanti, siamo abituati a sentirsi suonare i clacson, dà un po' fastidio, però alla fine ignori tutto e cerchi di stare sempre in fila indiana rispettando gli stop e queste cose qui, anche se spesso e volentieri le macchine gli stop, vedendo il ciclista, li bucano o entrano senza guardare più delle volte. È capitato anche di vedere qualche sportello si apre all'ultimo o qualche macchina che esce senza controllare lo specchietto. Sì, e secondo te che c'è modo di migliorare? Che si può fare per migliorare? Ma secondo me è più che altro è una disattenzione dell'automobilista. C'è da migliorare, non lo so cosa si potrebbe fare. Magari meno macchine. Quello sì. Infatti ora dovrebbe andare a fare quel giro. No, ma hai visto, non so se l'hai saputo, ma anche a Firenze c'è stato un crollo degli inquinanti nella piana fiorentina, perché appunto, visto il blocco, nessuno più prende la macchina per andare al lavoro, o perché ci va, o perché lavora da casa, o ci vanno solo quelli che... E si respira molto meglio. E forse ci bisognerebbe chiedere che se magari non è il caso di usare un po' meno le macchine, no? Questo è ma ti volevo fare un'altra domanda. Tu ti senti più sicuro in squadra quando sei per strada o da solo? Cioè, mi sento sicuro, nel senso, con gli automobilisti, no? Sì. Mi sento sicuro più che altro quando c'è l'allenatore con noi, con la macchina. Lì mi sento molto sicuro, anche se siamo in due o tre, però con la macchina dietro mi sento molto più sicuro. Senti, una curiosità. Dici, scusa. No, ho finito. È una curiosità, a me a volte è capitato vedere squadre con la macchina davanti e tutti dietro che gli pigliano la scia. È un tipo di allenamento quello? È dietro macchina, più che altro serve per fare il ritmo nelle gambe, per avere una pedalata agile, in scioltezza, come fare il scioglimento. E si usa anche per tirare tipo le volate, per fare una volata tirata tipo a 60 all'ora e fai una volata dietro macchina, oppure fa semplicemente dietro macchina, un'oretta di dietro macchina e fai il defaticamento, insomma, prendendo un po' di ritmo con le gambe pedalando agile. Senti, ma ti garberebbe avere altri tipi di bici oltre? Quante bici hai innanzitutto? Ma io ho quella della squadra, la mountain bike. Quindi la pista, quindi quando si fa pista. Però la mia domanda è la mountain bike. Quanto ti garba la mountain bike rispetto alla strada? Quanto riesci a farla? Quanto tempo ti lascia libero l'allenamento, diciamo, ufficiale per fare la mountain bike? L'allenamento di strada non mi lascia tempo libero né per uscire con gli amici né per fare mountain bike. È uno sport che purtroppo è così. E la mountain bike è l'inverno. Ci si diverte un sacco d'inverno quando non c'è l'allenamento. Si prende la mountain bike e si va tra i boschi a fare qualche salto, a fare qualche percorso sterrato, insomma, sulle pietre, tanto per divertirsi, sentire la bicicletta che va sui sassi. Hai visto che ora va tanto di moda, diciamo, il multidisciplina, no? C'è Matthew Van Der Poel, che è il famoso campione, che tutti attribuiscono la sua bravura al fatto che sia mountain bike, sia ciclocross, sia strada, no? Tu pensi che questa cosa c'è un fondo di verità o è solo una moda? Ma secondo me è un fondo di verità. Anche io quando faccio pista di solito tendo a migliorare anche le mie prestazioni anche sul ciclismo in strada. Perché comunque la pista, avendo il rapporto fisso, aumenta anche la forza, e quindi la multidisciplina, come si chiama,